Quest'anno saranno moltissimi i dischi storici che festeggeranno il loro anniversario. Tra gli altri, Elton John, Bob Dylan, gli Who, i Metallica, gli Eurythmics, i White Stripes e molti altri festeggeranno l'anniversario delle loro pubblicazioni più famose. Ne abbiamo selezionate 5 per voi assolutamente irrinunciabili. E non potevamo che partire dai Beatles, che quest'anno festeggiano 60 anni dalla pubblicazione dei loro primi due dischi, Please Please Me e With the Beatles. Il primo in particolare è registrato durante una leggendaria sessione di registrazione di 12 ore, traendo spunto dal materiale che eseguivano abitualmente nel noto Cavern Club di Liverpool. Il produttore George Martin riuscì a far produrre al gruppo ben 14 canzoni, tra cui Love Me Do, I Saw Her Standing There e Twist and Shout, una cover del gruppo Top Notes che molti scambiano ancora per un pezzo originale del quartetto di Liverpool. Nel secondo disco, invece, spiccano All My Loving e I Wanna Be Your Man, pezzo composto dalla coppia Lennon-McCartney e prestata anche ai Rolling Stones, che ne fecero il loro primo singolo di successo. Quest'anno anche Paul McCartney solista celebra un anniversario importante. Compie infatti 50 anni Band on the Run, il suo disco forse più riuscito, realizzato col suo gruppo dell'epoca, gli Wings. Ricordiamo che Paul l'anno scorso è stato headliner del Festival di Glastonbury e ha festeggiato un altro compleanno importante, quello degli 80 anni. Il 1973 è stato sicuramente l'anno dei Pink Floyd. La pubblicazione di The Dark Side of the Moon, attualmente le copie vendute sono circa 50 milioni, è stata infatti un punto di svolta di quell'anno. Importantissima la ricerca sul suono, merito anche del tecnico Alan Parsons, nominato ai Grammy del 1974, e lo sviluppo dei testi, curato in particolare da Roger Waters, bassista del gruppo che sarà tra l'altro di scena all'Unipol Arena il prossimo aprile. I testi trattano degli aspetti che sfuggono al controllo razionale dell'animo umano e sono quindi il lato buio della nostra personalità, The Dark Side, appunto. Waters utilizzò anche i tecnici di studio, ponendo loro domande prima banali e poi su temi importanti, come ad esempio la morte, e inserì le loro voci all'interno del disco. Importantissimo il contributo anche della cantante turnista Claire Torrey, che improvvisò sulla melodia di The Great Gig in the Sky, rendendola la traccia indimenticabile che conosciamo ancora oggi. Anche in Italia festeggiamo anniversari importanti. Vasco Rossi, protagonista anche lui di 4 date allo Stadio Dall'Ara il prossimo giugno, festeggia ben 2 compleanni quest'anno, i 40 anni di Bollicine e i 30 degli Spari Sopra. Il primo è stato nominato il miglior disco italiano dalla rivista Rolling Stone ed era una produzione all'avanguardia per l'epoca. Ad esempio, per il brano Deviazioni fu fatto portare da Milano un sintetizzatore di nuova generazione utilizzato per registrare sole 4 note all'interno del brano. Il disco guadagnò popolarità anche in seguito alla partecipazione di Vasco al Festival di Sanremo 1983, in seguito al quale Vita Spericolata divenne un vero e proprio inno generazionale. Rimane un mistero se ci fu un caso con la Coca-Cola, che è citata nel pezzo che dà il titolo all'album e che si apre appunto con lo stappo di una lattina. Per quanto riguarda gli Spari Sopra, invece, il disco in poco più di un anno vendette più di 1 milione di copie ed è notevole per la partecipazione di Pino Daniele, ospite alla chitarra e ai cori nel brano Hai ragione tu, su musica di Dave Stewart degli Eurythmics, e per la traccia che dà il titolo al disco, che riprende la musica da Celebrate degli Unemotional Fish, che nel ritornello recita This party's over. Vasco trasformò questa frase in Gli Spari Sopra. Altra traccia degna di nota è Delusa, che prende in giro la trasmissione televisiva Non è la Rai e le sue ballerine. Sono da citare anche Vivere, una delle canzoni manifesto di Vasco scritta con Massimo Riva, e Stupendo, ancora oggi frequentemente eseguita nei suoi concerti. Il 1983 è stato l'anno della consacrazione della band irlandese U2. Tra la pubblicazione del disco War, il loro primo album politico, che venne dopo un periodo in cui la band era sull'orlo dello scioglimento per questioni religiose. Bono e Di Eggio, in particolare, non riuscivano a conciliare la fede con i concerti e la vita rock and roll. Fu poi Di Eggio che portò l'idea per uno dei brani fondamentali di questo disco, ovvero Sunday Bloody Sunday, che parla della questione irlandese. La politica compare anche in New Year's Day, che tratta della situazione polacca e del movimento Solidarność, guidato all'epoca da Lech Wałęsa. Il 1983 fu anche l'anno dello storico concerto all'anfiteatro di Red Rocks, a Denver, in Colorado, quando la band suonò in mezzo alla nebbia e sotto una pioggia torrenziale che non scoraggiò i fan. Anzi, fruttò al gruppo il loro primo video di un concerto. I due dischi segnarono la fine della prima fase della band, quella più vicina alle sonorità punk rock. In seguito, infatti, soprattutto grazie all'arrivo di Brian Eno dietro al banco mixer, il gruppo irlandese virò verso suoni più introspettivi e stratificati, che porteranno tra le altre cose alla pubblicazione del primo dei loro capolavori, The Joshua Tree. L'ultimo anniversario di cui parliamo è quello dell'ultimo album dei Police, uscito nel 1983, dal titolo Synchronicity. Il disco abbandona le influenze reggae che avevano caratterizzato i primi lavori del trio britannico e propongono invece un mix tra il pop e la sperimentazione dei due album precedenti. La maturità del lavoro è testimoniata anche dal fatto che Sting, in una delle foto di copertina dell'album, sta leggendo un libro del filosofo Jung, e da qui viene anche il titolo dell'album. La sincronicità è infatti la relazione non causale tra eventi che accadono e stati d'animo di chi subisce questi eventi. Il disco fu il simbolo anche del conflitto interno al gruppo, che si sarebbe sciolto di lì a poco. La band, infatti, registrò le parti separatamente, ognuno in una stanza diversa dello studio.